i risultati che noi abbiamo dai nostri osservatori per quanto riguarda l'osservazione che abbiamo potuto fare nelle 11 province è che ci sono delle province in cui il voto è andato bene, nel senso che i seggi hanno aperto, c'era il materiale elettorale e c'erano anche gli elettori che hanno potuto quindi votare. Purtroppo ci sono delle province in cui tutto questo non è successo, nel senso che i seggi hanno aperto molto in ritardo e ce ne sono anche che non hanno mai aperto, oppure ci sono dei seggi che hanno aperto 3 giorni dopo il giorno del voto, il 28 novembre, e in questi seggi è stato un caos totale, nel senso che il materiale non è mai arrivato, è arrivato solo in parte, quindi non c'erano abbastanza schede elettorali per far votare tutti.